headlights are on. Le ore 21 qui Radio Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza. 17 febbraio del 2021. Prova tecnica di trasmissione su queste frequenze ormai dal lontano 1992, frequenze che hanno naturalmente anche un sito internet che è www.ondarossa.info. Le comunicazioni email sono possibili su ondarossa@ondarossa.info. Domani sul sito della radio e sulla pagina Facebook di riferimento di questo programma, prove tecniche di trasmissione /disorder, ci sarà naturalmente la registrazione, la playlist, il podcast, tutto quanto, insomma. Saluto Maya in Sardegna, Nicola Locci di Stigmat Hexagonal, anche lui da quelle parti, Tabua Rasa da Cortina d'Ampezzo, Alessandra Fiamignano, un grosso bacio a lei. Simone Scalisi di Audio Chaos, Rico Cerrato di Petrolio, Davide Mastrullo di Clangore, Daniele della Hellbones Records al lavoro ma ogni tanto ci ascolta. Francesco Cornello in quel di Bergamo, Antonio Zoviet a Firenze, Flavio Derbecanta e Arianna Digni Lombardo di Noise Cluster. Allora, come molti intuiranno, andiamo ad iniziare con Together, questo album incredibile di Nine Inch Nails, uscito in coppia a Locust, due album dall'evidente struttura ambient, con del pianismo notturno e soprattutto con il pianoforte si può riconoscere in qualche modo le atmosfere dei Nine Inch Nails, giacché poi il nostro Trent Reznor non canta in questi due lavori. Atmosfere magiche e dilatate che andiamo ad apprezzare in questa Out in the Open e poi Your Touch. Il buon Trent Reznor dunque non finisce mai di stupirci, e lo fa anche attraverso questo Together, un album dell'anno scorso, gemello di Locust, che chiaramente ascolteremo in futuro. Le atmosfere così evocative, in sospensione e affascinanti allo stesso modo. Con il fido Atticus Ross e Alessandro Cortini in ritorno nella conformazione di Nine Inch Nails, vedo che qualcuno lo ha già scaricato e ne vale la pena, in free download proprio dal sito stesso di Nine Inch Nails. Buonasera a Like Wake, pezzo di storia ambient qui a Roma, il buon Gin, Eugen Vintras da Venezia. Presto avremo delle novità che gli riguardano. Urnus Island dal Piemonte, anche questo un pezzo di storia industrial. Daniele Ciullini, che abbiamo trasmesso qualche tempo fa e che lo ritrasmetteremo presto. Arianna Di Lombardo la saluto di nuovo. Xena, insieme a Nicola Locci. Si possono considerare effettivamente questo il quinto volume di Ghost, per essere più precisi. Ghost è già uscito in quattro volumi in precedenza e il sesto appunto Locust. Andiamo avanti, un altro personaggio che ci va un po' a spiazzare è Simone Salvadori, che molti conosceranno soprattutto come Spiritual Front e ultimamente anche come Last Syndicate, un interessante combo di electro industrial un po' sulla falsa riga di Test Department. Ebbene, non contento, si è inventato un'altra realtà dal nome Morg Ensemble, e anche lui qui si muove sull'ambient, sul sinfonico, con anche del tribalismo e con delle atmosfere vagamente etniche. L'esordio si chiama Black Scenario Volume 1, uscito l'anno scorso in cassetta attraverso la Tesco e ristampato in CDR e autoprodotto quest'anno, proprio nel febbraio, proprio adesso. E quindi ci ascoltiamo la intro Morghe Sueño, poi Touch Me, My Casket Is Still Open e poi Blind Invocation. il forte retrogusto gotico, ma anche l'afflato percussivo arricchisce questa opera di esordio di Black, questo Morgue Ensemble di progetto solista di Simone Salvatori. Spiritual Front e Last Syndicate. Qui è veramente in splendida solitudine e neanche canta. E tira fuori una parte di sé obiettivamente ignota fino ad ora. Black Scenario, volume 1. Parlando con lui mi ha anche anticipato che a breve uscirà anche Last Syndicate, il secondo capitolo. Ma noi intanto ci godiamo questo Morgue Ensemble, giustamente definito da Alessandra un vero e proprio labirinto emotivo. Altri labirinti altrettanto emotivi sono sicuramente quelli che provengono dal Messico. In singolare, diciamo, continuità, ci sta anche bene, lo sentirete. Il Mexican Music Survey, Anthology of Experimental Music from Mexico. Naturalmente c'è Raffaele Pezzella dietro questa bella operazione. E concludiamo il viaggio in Messico attraverso altri due nomi, Informaldeide, che ci ricorda in qualche modo anche Atrax Morgue, con Noirland, e poi Texuec Band, con una traccia che qui sembra priva di nome. Ce ne andiamo ad ascoltare. Queste percussioni vanno ad anticipare, a presentare Texueke Band, e ho scoperto che il brano si chiama Sembrador. Qui sulla, all'interno della copertina del CD, per un errore di stampa è scomparso il titolo. Titolo che ho scoperto invece sul profilo Bandcamp della Next Place Sounds Group. Ultimi due episodi, e quest'ultimo era decisamente etnico per certi aspetti, molto tribale, uno dei pochi, diciamo, episodi di questa compilation dedicata al Messico più sotterraneo, che ha scoperto un po' le carte della provenienza di tutti questi gruppi. Ricordiamo Antologia di musica sperimentale dal Messico, Anthology of Experimental Music from Mexico, ad opera della Nesplay Sounds Group Production di Raffaele Pezzella. Era iniziata con delle progressioni un po' alle splendor geometrico e poi il tutto si è arricchito appunto con questa ispirazione etnica. Intanto vado a salutare il buon Paolo Contucci, che abbraccio caldamente. Is it all in quel di Milano? Progressioni ritmiche e tribalismo è presente anche in questo vecchio disco di Job Karma. Lui proviene dalla Polonia, si chiama Masik Friet ed è anche il ideatore del Wrocław Festival, che si è tenuto in tutti questi anni, chiaramente adesso diciamo sospeso. Abbiamo Newson del 2001, che fu il terzo lavoro se non sbaglio, e dal quale estraiamo Shackle. Eh sì, è tutto molto bello effettivamente. Trattasi di Newson per Job Karma, secondo lavoro del 2001. In realtà Maciek e Friet era in coppia con Aurelius Piraselski, mentre dal vivo c'è un altro componente del quale però ignoro il nome. Un non so che di ritualistico si poteva cogliere nelle note di Job Karma. Tribalismo, però in stile quasi krautrock, perché anche il krautrock in qualche modo usava la percussione. Popol Vuh, per esempio, ed altri soggetti di quell'epoca. Si chiamava Shekel questa seconda traccia di questo vecchio lavoro di Job Karma. Buonasera a Solo Orologio, sia Fulvio Biondo. Andiamo verso climi leggermente più freddi, glaciali, ma arricchiti anche da profondi fendenti noise. Vi introduco Nihil Impulse, terzo lavoro di Francesco Di Stasio, artista romano. Si chiama Stasis e anche lui è stato accalappiato dal buon Pezzella attraverso però la 8 Tower Records. L'etichetta, diciamo, che più predilige proprio atmosfere ancora più rarefatte. Ci ascoltiamo Apprison, Within Apprison. La sferzante struttura armonica di Stasis, di questo Nihi Impulse, terzo lavoro per Francesco Di Stasio. Che in realtà andava a riprendere anche un'altra versione di Stasis uscita 3 anni fa attraverso la Enteritus Numen, la sua etichetta. Grazie invece a Light Tower c'è una nuova versione arricchita, con un suono migliore. I più attenti avranno già riconosciuto le qualità visionarie di Current 93. È partita questa Only Shadows of Ux, contenuta in Live at Bar Maldoror, luogo immaginario della mente di David Tibbet, Steven Stapleton in Arts with Wound, John Murphy, John Balance e John Fothergill. Pensate un po' che formazione incredibile. Note però già presenti Nature and Wild, primo lavoro dell'84, riprese in una versione qui diversa, in questo lavoro inizialmente del 1985, ristappato in CD nel 90.